Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte dell'ultima settimana di giugno, poi ci sarà sicuramente ancora spazio a luglio per Eclettica, ma poi non tantissimo, sarò più preciso ovviamente, ma al momento non voglio esserlo, voglio mantenere un leggero stato di sospensione. Comunque è sicuro che la 12ª stagione di Eclettica si interromperà, qualche settimana di vacanze, di riflessione, poi una nuova stagione, la numero 13, con le solite piccole variazioni sul tema, qualcosa si aggiunge e qualcosa che si toglie rispetto alla stagione precedente. Purtroppo negli anni passati qualcosa che si è tolto è stato Profumo di vinile, quella è stata una grave perdita per me, ma so anche per molti fra voi, me l'avete fatto sapere molto esplicitamente. Però l'anno prossimo si sa già che qualcosa si aggiungerà e fra l'altro nel nome ricorderà anche profumo di vinile, un qualcosa che è arrivato da voi, dalla lista nera, un qualcosa che ha ritrovato anche un nome in lista nera, che ha passato al vaglio varie fasi, ormai è stato approvato ufficialmente. Si andrà quindi a pescare con una formula non estemporanea ma in pratica una rubrica fissa, si andrà a pescare dalle playlist degli anni precedenti il meglio, i brani che più hanno caratterizzato Eclettica, come in maniera estemporanea è successo in queste ultime settimane, prima con Baxter Dury, il figlio di Ian Dury, e poi anche con la versione di Mad World estratta dalla colonna sonora di Donnie Darko. Ecco, questo spazio si chiamerà Profumo di Eclettica. Questa è la storia di un triangolo d'amore. Protagonisti: Arnie Cunningham, Leif Cabot e naturalmente Christine. Vorrei tuttavia che teneste presente il fatto che Christine entrò in scena per prima. È stata il primo amore di Arnie, anche se non lo giurerei, penso tuttavia che sia stata il suo unico e vero amore. Per questo sostengo che ciò che avvenne fu una vera tragedia. Io e Arnie siamo cresciuti insieme nello stesso quartiere, abbiamo frequentato insieme la scuola elementare Owen Andrews e la media inferiore Derby, e infine il liceo di Libertyville. Credo sia stato soprattutto grazie a me che Arnie non fu fatto fuori alle superiori. A quell'epoca ero un vero colosso. D'accordo. So benissimo che non conta un cavolo, che 5 anni dopo il diploma non si riesce a spuntare nemmeno una birra gratis per essere stato il capitano della squadra di football e di baseball e nuotatore della squadra nazionale. Resta comunque il fatto che grazie a me Arnie non si è fatto ammazzare. Gliene hanno fatto passare di tutti i colori, ma non ci ha mai rimesso la pelle. Questo era l'incipit di Christine di Stephen King. Don't want for the dead things. Don't wanna open up the wounds that never heal. I found a space between for all those memories out in the black where they keep me company. I've been trying to maintain, but it's always in vain. Will the sun shine again when I'm gone? Eclectica. Con la sua nuova avventura di nome The Whitest Boy Alive, dalla quale ci siamo ascoltati il brano intitolato Burning. Invece in apertura di Eclettica un bel disco per Kill Rock Stars a nome Imad Vasif, Out in the Black, il brano che vi siete ascoltati. Ora ci spostiamo invece sulla Drag City. 5 di giugno 2006 e questa è la data che vedo sul comunicato ufficiale che ha accompagnato il nuovo disco di Six Organs of Admittance. The Sun Awakens è il titolo del disco, è il disco che segue il precedente School of the Flower, sempre su Drag City e sempre a nome Ben Chesney, ovvero sia lo pseudonimo Six Organs of Admittance, che è quello che già ha utilizzato appunto per questo suo disco e che già usa anche in questo secondo. membro di Comets on Fire, Car 93, si è dato a questa carriera solista in cui sta cambiando un po' quelli che erano i termini della sua prima prova. Sicuramente questa è più oscura, ruota molto attorno alla chitarra, come per esempio, lo state per sentire, negli arpeggi della traccia numero 4 delle 7 in totale che costituiscono The Sun Awakens. Questa quarta traccia ha per titolo The Desert is a Circle. The bombers, get the subs in launch mode. We are at DEFCON 1. Confidence is high. I repeat, confidence is high. After very careful consideration. Acqua. Erano questi i Blume, trio italiano che incide per Pippola Music, Piove Piano è il brano che ci siamo ascoltati, tratto dall'album, in tedesco vuol dire fiore, che è proprio la spiegazione del loro nome. Se dovessi andare a vedere nei mail che arrivano a giulio@radiorockfm.com qual è l'artista di cui in questo momento si parla di più, non avrei assolutamente dubbi. È Owen Pallett, altrimenti noto come Final Fantasy. Questo è Many Lives, 49 MP. Standing by her mirror, brushing out her curls and braids. The evening had arranged the night before. She noticed her pale cheeks that were seen through haggard eyes that suggested conversation in the morning. I have reached constraint. scraped and borrowed. I have all but paid the price, as was ordered and was needed for the battles. Turning to her husband, she so carefully said, "My dear, what put that idea in your head?" Voices cry in silence or crowd stealthily away, left shivering with rigid lips compressed. To watch over him and pray, bring him up the Christian way. And now what can I say that's less profane? Power. I didn't mean to tell you this, though I don't intend to share them to their full extent. If it's sorry we feel about it, I do respect. I am the most undisciplined of men. E ci siamo avvicinati, grazie a Kurt Wagner, anche alla chiusura della terza parte di Eclettica sulle frequenze di Rock FM, frequenze reali nel caso stiate ascoltando per radio, o frequenze virtuali nel caso stiate ascoltando grazie al podcasting, ma il mezzo è sempre lo stesso, è quello radiofonico, al di là del meccanismo così con cui la musica viene trasportata verso le vostre orecchie. Prepared, il titolo del brano, estratto dall'album a nome Lamb Chop, album dal titolo Damaged, uscito per City Slang. E chiudiamo con la band bresciana che a me è piaciuto soprattutto nella traccia che hanno scelto per dare il titolo al loro disco, band dal nome Black Eyed Susan, e traccia e disco dal titolo And Silence Will Begin Soon. Thank you. eclettica. Fine della terza parte.